ancora leve il tempo, non si ferma proprio mai. Lascia in un momento, ciao goodbye, ciao goodbye, ciao goodbye, ciao goodbye, ciao goodbye, ciao goodbye. Today.